sì. Adesso ho capito. Perché sei vecchione come me, adesso ho capito. Ho vecchione e anche la testa di mezzo uso. È pungo. Un pochino insomma dare un qualcosa di presenza, Ma qualcuno mi ha veramente un po' deluso, mi ha veramente un po' deluso. E quindi non mi sono più avventurato, tra l'altro io e mia moglie non l'ho conosciuto al baracchino e perciò non ho niente da recriminare con nessuno. Non ho fatto mai il galletto con le ragazze del baracchino, qualcuno insomma così, ma al di fuori dalla radio ci siamo visti e basta. Ma d'altronde non mi è mai interessato per fare il galletto in radio, non era una cosa che mi è mai piaciuta, anche perché mi piace vedere in faccia le persone, non parlare dietro un microfono e far finta che sì, chissà che cosa, poi vai a vederla, sia un zingaro. Come quelli avventori che stanno sotto che poi era pieno di quei quelli, cioè la mamma un quaderno più di 1.000 articoli, perché io non lo cerco e ve lo dico anche chi continuava, però niente clavi di più, no? Non era fatta per me il baracchino per andare a cercare il gentil sesso, e poi andavo e me lo cercavo diversamente dal baracchino. Riprendi Franco. Reciproca verso gli altri, quindi mai stata un'accusa continua, forse perché il livello delle persone era quello, quindi cioè, la gente non si espone più, secondo il mio parere, pur non lo so. Vai Franco. Questo è normale per noi, sì, in definitiva era avuto, anche perché prima diciamo che di donne c'erano parecchie qua alla, alla radio, e io ne ho conosciute parecchie anche di ragazze e anche donne grandi, però non è più come prima, e prima c'era molta più educazione di adesso, tutto lì, perché ci sono in frequenza molti anni. Sempre da una persona civile e non da una persona maleducata, così si può dire a frequenza. Caro Gianni, tutto qua. Infatti sai così, noi siamo così, io sono così, io sono la classica persona che la mamma gli apre ancora lo sportello della macchina, però la gente se tu vuoi fare una battuta come sono mi faccio io, o che parlo, che mi devi mangiare una pizza, ti dice subito che sei quello che sei, non è così. Io ho molto rispetto e purtroppo molta gente non la vede così, sono una persona molto rispettosa a me e me ne sono capitate, mi sono venuto anche a volte le mie scatole in garage, mandate a posta, però non me lo risolvo, cioè una girata, però hai capito, non sono tutto così da farsi, hai capito, sono gentilissima, sono un galantuomo, tutto quello che vuoi, però cammino, diciamo, sempre con l'educazione che mi hanno imparato i miei, perché deve essere così, di come sta dicendo Claudio, se capita una frequenza sono subito i falchi che scendono, e Claudio ha parlato della 50 che tu dici di modulare, sì, perché tu mi dici, non va bene che la mia 50, la 50 di Claudio, la 50 tua, si metta a parlare perché, capito, non c'è educazione, però prima che parlavano c'era anche un po' di educazione, quando i baracchini diciamo erano inaccessibili come prezzo, poi iniziato a essere accessibile a chiunque, e trovavi anche il primo delinquente, il squalo la frase, il primo accordo che andava poi a sconfinare. Riprendi a Torello. Sì, capo, comunque c'erano tanti anni fa, cioè se lo ricordo, c'erano le morte. Su 14 per esempio, ragazzi, c'erano parecchi che frequentavano lì la barattina, c'era Roberta Ventorina, c'era Giannina, la Bianca, c'erano anche un sacco di ragazze, la verità. Quando parlavo io c'erano un sacco di ragazze. Qualunque, chiunque scavava era fuori dalle palle, subito. E quindi cambiava canale. Però io mi sono sempre divertito, la verità. Su 14 ho sempre avuto ragazze a baracchino, sempre. Perché mi comportavo bene, anzi ti posso dire una cosa, l'ho fatta già parecchi anni fa, per stare in antenna, beh, l'unica persona che hanno chiamato a me, che io non ci davo niente, tutti quanti i tecnici, eccetera, hanno chiamato a me per stare a Mantova. Questo me lo posso, mi posso vantare se me l'ho fatto. Però, perché non mai approfittato di niente, la verità, di nessuno aveva sentato a baracchino. Ci frequentava, ci parlavo, ero simpatico con del genere. Anche come la Girona, la verità, Girona era quello che era, brutto di persona, però di simpatia era una cosa allucinante. Noi ci divertivamo. Io non ho mai ritornato con nessuno su 14. Però mi sono ricordo, il canale più pieno che c'era la mattina alla sera era il 14. Non c'era nulla da fare, c'era una volta, guarda, dalla mattina al presto alle 8 per dire. Fino alle 2 o 3 del mattino, addirittura, anche da tutta la notte, la verità. E però se lo ricorda, una notte è capitato che si è affamato e poi siamo andati a mangiarci le pasta. Adesso è mangiato, mangiando gli altri. Sì, ma come vedi, si collega a tutti i discorsi che stiamo facendo, ma oggi come fai? Oggi fa una battuta così, tu mi conosci 30 anni, Franco lo stesso, Capri, ci conosciamo una vita, ma poi non ho più sentito il radio, tanta altra gente, ma oggi cosa fai? Oggi fa una battuta così, scherzosa, a modo tuo, eccetera, e ti viene una parolaccia, ti minacciano, ti fanno, come non vuoi fare radio quella. Quindi siccome il mondo non è più come prima, cioè il mondo della radio non è più come prima, allora è meglio spazio per i fatti suoi, ognuno fa ruota per sé, ognuno si lega a quello che si deve legare, ognuno fa quello che le piace, giustamente, senza problemi. Ma prima, come stai dicendo tu, la ruota era unica, magari c'erano quelle 10, 20 persone, 15 persone, 4 persone, è capitato anche di stare in 2, in 3, dalle 14 fino alle 4, 5 al mattino. Non c'erano problemi, Antonio. Prima era così, e tu lo sai. Ma adesso non si può più fare. A parte il fatto che ci sono 4 ratti che sono sempre gli stessi. Perciò non fa. Io vedi sono qua, non voglio parlare nessuno, e nessuno me l'avrebbe rompere, questo non ci sono dubbi. E niente, faccio questo con Franco, poi mi fa piacere che la gente entri, evidentemente le fa piacere parlare con noi, con me e con Franco, non ci sono problemi, ma siamo sempre lì, capito? Il discorso è sempre quello, molto ristretto, rispetto a prima, molto ristretto. Anche perché c'è molta pasta asciutta, ci sono molte frittelle in frequenza, molto dialogo un po' che a me poco piacciono, quindi diciamo qua, ne parliamo del più del meno, di solito parliamo di radio, di solito parliamo di cose che dobbiamo fare, ma sono queste ore a due e giustamente come che sia il telefono. Però è molto bello parlare un po' in generale di tutto quello che diventa la radio. Ogni volta che devo entrare devo dire cosa ho mangiato, cosa sto facendo, quante volte sono andato in bagno, eccetera, eccetera. Non piace a nessuno ascoltare queste questioni, capite? D'altronde a me non. Forse per quello io faccio radio diverso dagli altri. È così. Vai Franco, lasciati e lascia stare i bomboloni. Sai un attimo, non ho finito il bomboloni, non ce ne sono più. Oggi Anna, ti volevo chiedere, ma tu hai anche mai montato sulla macchina la Sigma, quella nera? La mia prima Sigma che ce l'avevo in bianca, con la molla cromata, quella ce l'avevo sulla 250 fila, che quella che ho montata per montare la Sigma con la molla più grande, e quella qui è andata a finire male, dai a uno, dai all'altro, di quelle Sigma così mi ne ho dato una o tre, però poi è rimasta, perché era sempre in un angolo, in garage, l'ho messa, c'è manco un albero di rosso, e va bene, ci vuole andare stasera, anche a Palchetto, qui si gira, ho chiamato il guardo negativo, quello ho io, ieri, che ce l'ha preso, e mi ha risposto e va bene, niente, a me piaceva, però io ho ascoltato anche Claudio, c'ho una base di quella che stava dicendo, non so, posso adattare anche antenna VHS, tutte queste cose poi su quella base, è fortissima, non arriva neanche a un metro della 27 cose, ma dando quella nella stessa base ci attacchi qualsiasi tipo di antenna, è vero qua? Sì, non c'è problema. Non c'è problema, ma vabbè. Io ho messo quella che ci vuole la radio. Ce n'è una per ogni frequenza, quindi non ci sono questi problemi, però tu che magari ne hai una unica, potresti fare quel gioco lì, commutando, potresti attaccare tutte insieme. Ma io sei che lo chiedo di antenne di barrarmi nuove, ci avevo non di questa roba, però ci avevo quelle antenne della Caletti che montava la polizia, che ricordiamo 3 o 4, come tutto l'altro, c'avevo una bella base, e dovevo farci un foro indifferente in macchina. Ma io vado in garage e Franco le ha viste, c'ho di tutto. Proprio c'ho antenne, guarda, che non sapevo neanche di avere, perché ho fatto pulizia in mansarda nella casa di Giulia, c'era secca, e ho provato di tutto, con Franco abbiamo provato di tutto, molti di antenne, di PL100, PL5000, della Sirte, della Sigma, di tutto, ho provato le antenne nuove, usa direttamente lo stilo per entrare in garage. Ho detto tante le cose al telefono, ci può fare il quarto d'ora della 27, non so manco quanto ne ho. E poi anche nel VHF, VHF, guardi tutto, portati, portatilini, strumenti, ne abbiamo trovato una cassetta intera, di addirittura l'HQ1000, Antonio Trico di Subarragione, che prende il ratolino, dove c'è anche il modulometro, l'ormetro, il ratto, il retrocorrettore, il modulometro, di tutto, bar, una radio, grande, che fa schifo di quanto è grande quello strumento, poi TM1000, TM1000 ne ho trovato due, di strumenti della ZG, no, guarda, di tutti i colori, vai incrociato, normali, di tutto. Rosmetri, wattimetri, accordatori, commutatori di antenne, guarda, ho Gianni, faccio anche schifo la roba che ho. Infatti l'ho detto a Franco, fra, facciamo un farotto, mettiamo tutto ad un mercatino lunedì e vendiamo tutto, guarda. Thank you. 500, perciò non c'è nessun problema per me. Ma so che c'è un nuovo decreto di controllo, perciò oggi la veglia. Franco, apri il microfono, no, ma guarda che io non mi regalo di discontazioni, non sono assolutamente favorevole a quello che hai detto tu, a prezzo basso. I miei strumenti li ho pagati con i soldi, con i soldi, capito? Se non vanno, se lo compro un'altra parte, perché me ne fregano, non regalerei assolutamente niente a nessuno. Sicuramente non mi vedrà nessuno, pensare se mi faccio il mercatino, io mi ce l'ho fare il mercatino in un altro senso, mettere tutto, ballare tutto e mandare fuori, capito? Un mercatino che conosco, che ti pagano a blocco tutto quello che tu mandi, se è roba che funziona, basta. Oppure fai dei cambi per dire cosa c'hai, 10 strumenti, sì, ok, quanto valgono? 200 euro tutte e 10, ok, per 200 euro ti do questa radio, va bene, va bene questa radio che mi fa bene perché non ce l'ho a quei livelli, ma non è che devo regalare la mia roba ai cani morti. Sono finiti i regali ai cani morti, Antonio. Sono finiti da qualche mese a questa parte, vai Franco. Roba che magari non usi più, la vedi a prezzo buono, ma lei ce l'ha già la gente per dire, potete comprarla a prezzo intero 10 mesi di meno per dire. Io faccio così, io a me la roba che non mi serve, quindi me la vendo e basta, ma non a prezzo proprio per dire come l'ho comprata nuova, no, 10 mesi di meno. Diciamo quello che è, non è che ci rimetto per forza, ve la voto, sono fatto così io. Il discorso è questo, però per dire, se c'è da fare che in casa, no, non esiste per me, io sono fatto diversamente. Non mi basta uno e buono, basta, non mi interessa nient'altra cosa. Io sono fatto così, non mi è per la casa di Mondezza, perché è Mondezza per me, apparecchi a spendere 50.000 euro di apparecchi per tenere in casa, per fare che sono stazioni così, no, non esiste per me. Io mi ho preso la famiglia, a comprarmi la famiglia, a comprarmi la macchina, per dire a comprarmi la casa, a comprarmi un terreno, io non posso spendere soldi a comprare un apparecchiatore di 15-20.000 euro, non esiste. Io sono fatto diversamente. C'è chi spende 5.000 e tu già lo sei anche tu per queste cose qua. La passione è passione, come gli aerei. C'è chi spende 15-20.000 euro, no, io penso la metà a me. A mangiare, a bere, a venire, a divertirmi, però a lasciare la roba qui. E tu quando voglio io, mio figlio, ce la butta la Mondezza, non esiste, no, non esiste. Il discorso è quello. Sì, ma non fa una piega ciò che hai detto, è chiaro che è così, non è la mia categoria, lo so, io avrò 15-20 mila euro di apparecchiature, ma ce l'ho in 30 anni, quindi no, sicuramente non li ho spesi in giro di pochi mesi, per modo più assoluto, e sono cose che col tempo hanno preso valore, l'ho speso con l'arco del tempo, quello sì. Ma sai benissimo l'attività che faccio, che mi è chiaro che non posso avere dei baracchini per poter fare così bim bum bam, o per attaccare l'eco e fare soldo alla gente, non me lo piaciuto. Le mie apparecchiature sono queste, e queste uso, basta, finito. Quindi uno è libero di fare quello che le piacciono. I 15.000-20.000 euro di apparecchiature sono cresciute col tempo, quindi da 30 anni a questa parte. Quando capita che c'è una novità, l'ho sempre comprata, ma pensando sempre che ce ne siano in più di soldi. Non certo lascio indietro la famiglia, come hai detto tu, per comprarmi una radio, questo non esiste nel modo più assoluto. È tutto fuori dal normale chi fa una cosa del genere. È fuori dal normale. Non esiste. Vediamo poi se è rientrato Franco. avevo pensato. Ci ho sempre andato la macchina. Io ho detto di tutto perché ho detto, ho la macchina, ma c'ho anche le gambe. Faccio un momento opportuno, cioè, se le cose stabiliscono, faccio un cavolo da capo con lui, io mi faccio passare i danni e piazzo la mantova sopra. E più c'ho le due antenne. Io sono calmo, tranquillo, non, sinceramente, il barattino è una cosa secondaria, la verità stringa. Non mi interessa fare piazza, come si dice, no, come fanno tutti. E quindi, siccome io non sono intorto, lui è intorto, e quindi aspetto, piano piano, a me non mi fa soffrire mai. Prima penso a lavorare, a incassarmi su nel ripentimento e cose del genere, un momento opportuno quando usciva la causa, non mi pare, mi sistema le gaffe, nuove nuove, mi pare i danni che mi ha fatto, e poi me ne vado in pizza della faccia sua a mangiare. Ma certo, certo, è così. Perché lui, diciamo così, anche non trovava neanche toccare da lì, dalla terapia tratta. Sì, vabbè, poi non c'era, aspetta, per andare a spaccarla io. L'ho recuperato l'antenna perché l'ho sistemata e messa a posto ed è perfetta. Ce l'avevo a 100 che usciva veramente bene, la verità. Qui c'è la grappa, l'ho passata qua su, l'ho piazzata. C'è più o meno la stessa guadagno dell'antenna della macchina. Solo che un palo così alto qua su, senza essere agganciato al muro, è pericoloso, perché non si scende sotto, a me fare le macchine di altro non mi fa bene, quindi ho preferito lasciare così come sono, perché conosco bene lo stesso, la verità, non mi lamento. Non c'è più cosa di prima, non mi sa bene come stanno le cose. Sì, a un momento opportuno. Io mi ha trovato, mi ha trovato le gaffe, come quelle che sono qua in campagna, dopodiché mi ha trovato al limite, ora penso nuovo, adesso vediamo. Forse la mantova di che c'era qui, la ripeto nuovo qui. L'ho sistemata, a finire la viadura, però il rischio è sempre quello. Quindi mettendo la nuova al limite, la vecchia, me la sistemo una. Per dire, ma non è una tua parte per pezzi della BN Napoli, capito? Beh, in effetti, se tu vuoi dire un'altra cosa, me la sono etichettato. Porca miseria, non ti volevo dire. E poi, anche poi, tra il 70 ha venduto tra la bici. No, il 70 non l'ho venduto, il 70 è quella mia. C'era una riparazione perché dove abitavo prima di svile. C'erano militari che stavano in pratica, stavano silando, no? Gli ho fatto sistemare tutti quanti, compreso anche gli ho fatto fare un'altra revisione all'interno, e quindi comunque la polica sta funzionando, l'ho sentito funzionare e va bene, è la verità. Ma lo ritiri? Appena ritiro i soldi, devo ritirare, lo ritiro. Così me ne sono a posto. Siccome c'è una lontana la macchina adesso, a me attacca il tempo tu, in questa antenna qua, rischi lì, perché 100 watt di quell'apparecchio lì, con quell'antenna che c'ho, non va bene, e quindi voglio usare il tempo con l'antenna come si deve, e come usare, per dire, un Ferrari, con, quasi posso dire, con circuito normale, da, quello che vuoi, comunque è così, purtroppo con questa antenna non mi fido, perché se sbaglio poco a poco magari attacco anche con questa antenna qui, posso incidere anche io, mi sono fregato, il discorso è quello, c'è una terra vecchia di macchina, lunga un metro qualche cosa, e qui non mi fido. E questo è il, praticamente non puoi adeguare una radio con un antennino piccolo tutto lì. Ok, rilanciamo la, come si chiama, l'antenna Claudio, e te lo chiedo ancora. Ok, tu mi hai detto che c'avevi un'antenna nera, uguale a quella che hai bruciato al muro. Sì, sì. E si conferma. Questo sono passato dall'altra radio. Oh, hola, ok, sì, e me non mi sa che era c'è quella. troppo a caso, vabbè, niente, ok. Perfetto, vediamo però ancora se c'è Gianni. Gianni, vai. Anche diciamo diplomaticamente, sono corretto, se si possono risolvere così sempre meglio. Per quanto riguarda quello che stava facendo Claudio delle leggi, ho detto, io ho tanto tempo che non smesso gli apparecchi spenti, ho detto se non andare anche così, oppure mi lascio un 40 canali pro me lo compro e il ricevitore 030 che ho anche con il seguente che se non ce ne vuole. E mi va bene anche così, però dalla vetrina gli apparati non ne tocca nessuno, nessuna esco, poi ne tocca qua. No, no, ma neanche a parte mia c'è questo problema già a me, ma non me lo piace molto, ok, tutto si procede a regola d'arte. Va bene signori, sono le 11:10, vi saluto e domani me lo farò presto. Altrimenti me la fa il sonno. Ciao Antonello, ciao Gianni e ciao Franco. Franco, ci sentiamo domani mattina, io ti chiamo, lasciaci il telefono, presto, intanto presto mi faccio le commissioni e poi ti chiamo. Se vuoi venire appunto a recuperare quella cosa che ti ho detto, se non ti aspetto quando è terminato e fa la spesa, non c'è problema, te lo devo andare perché sono documenti importanti che mi servono. Ok signori, buonanotte a tutti, grazie di questo, ci sentiamo domani Capri, ci sentiamo domani al limite. Se non ci dovessimo sentire che sei impegnato eccetera eccetera, non hai la possibilità di accendere la radio, ti auguro un felice anno nuovo come tu desideri, a te famiglia, tantissimi auguri, come idem con patate, pertanto noi se non ci sentiamo domani, tantissimi auguri di buon anno, ok? Per Franco invece ci vediamo domani, quindi microfono per Franco, poi ascolto il finale di Gianni e di Antonello, poi spengo a te Franco capo. Ok, questo è l'erico mio, perché sto chiudendo anche io. Saluto Gianni, Antonello e eventuali ascoltori. Ok Claudio, buonanotte, buon tutto, ci vado ad ascoltare domani e ci aggiorniamo domani. Comunque Fabio, tanti auguri anche da parte mia, di buon anno e buon tutto, come tu dici, di famiglia. Come saluto ricordiamo la tua guerra, anche la stessa cosa, tanti auguri a te in famiglia, e un buon anno. Saluto anche a quelli che sono all'ascolto, per me QRT me ne passo in 144 perché sono molto stanco. Ciao a tutti, buonanotte. Ok, Franco, grazie da parte mia, ricambio tutto quello che so anche al tuo cuore familiare, un buon inizio di anno nuovo, lo so, se domani lo accendo però. Penso proprio che sia negativo perché sto facendo diciamo altre cosettine ora e non penso diciamo, oh, tutto è possibile. Anche a Claudio, grazie degli auguri, buonanotte a te, se non ci sentiamo sta che sia dei migliori. Anche io vi approfitto, visto la tarda che qui mi sento alle 11:14, di salutare Antonello, però con Antonello domani mattina ci sentiamo senza altro e se in caso mai da male la roba che non accendo, anche a te un buon preanno e un buon inizio, e l'impegno è quello. Via, ok, ciao Claudio, ciao Franco, ciao Gianni, auguro di te domani, comunque penso di dire domani notte ci sentiamo comunque, perlomeno, non è tanto male, non sono a casa, sono a Ussi, quindi non c'è problema. Penso che ci debbano, se ne ho voglia, ci vediamo. Saluto dei belli, fatti figli maschi, mi raccomando Franco, domani notte, una bella contatta, e un figlio, tanto da Claudio, sei cotto, una bella brasiliana, fai finta che non c'è tua moglie, e almeno, anche tu, un figlio o una figlia, almeno allunghiamo le cose, una famiglia, non c'è problema. Almeno mi sono causato tutti e due. Avanti già. Ok, Roger, Antonelli, io ho chiuso il rubinetto, non ne voglio altri, basta lui. fissato di loro, c'è il piccolo che devono studiare, però diciamo che qualche cosa le faccio parlare, certo le partite come un buon musicista già si campa, però adesso c'è l'altro che ha poco ammogliato e niente, ci penseremo in seguito. Anche neanche io sto chiudendo, perché quello la tarda, diciamo che domani io a letto non ci rimango a me, come fanno, dico altre volte di alzare mezzogiorno, io è più tardi che posso rimanere, quando sono in vacanza, sono le 7 del mattino, perché esco a mettere la bandezza differenziata fuori, per non fare alzare la 50, perché gli altri giorni se io sono uscito si alza lì. Niente, Andrea. Ti auguro buonanotte, qui ci auguri domani, attenzione a non bere l'auto. Hai capito? Va bene, ma guidi. E io non sto dicendo niente di del genere, perché ognuno ha un fuori con mio figlio, quindi la pensavo a stare un po' in casa, perché io andavo anche in continente, andavo anche, hai capito, più di una settimana fuori, però ci siamo rincasati un po'. Ok, ripeti a me. No, io vi saluto allora, ciao nuovamente Capri, ciao Antonello. Ci sentiamo domani se coincide, altrimenti buon anno a tutti e alle prossime. Vai Antonio. Sì, ti ringrazio per altri problemi. Buonanotte a te. E mi raccomando, stavai notte, fate un tuo figlio, davvero per me. Poi siamo a posto. Sto scherzando. Ci accendiamo al limite, vabbè, se mai non si accende al limite ci accendiamo là, facciamo pure la usi da parte, cioè da parte, da casa di Giovanna, che è nato suo figlio, e qui non c'è problema. Ciao, ciao, buonanotte, buonanotte anche a Franco, ripigliatela, capito? Sì, ma sì, ciao Claudio, di nuovo, ciao Franco, buon tutto per buoni notti, mi raccomando, fate i bravi, come diceva Castagna. Andrea, ma la tua promettente di non si è? No, negativo, non doveva essere una presa fritta, perché c'era una ragazza innamorata molto di me, e invece io quando ho giocato, oggi prima dove ho giocato, arrangiati, e mi sono salita a Sassari, e sarà sposata un tipo, però dopo 15 anni mi ha detto, intanto ci fanno muovere tu, mi metto in cicavalessi, ha detto, e qui da giubilato sono partito io, a Cappassi. Ok, andare, vedi la lacrima, le do cassette d'acchi una miliare, in cui la bene adesso, in questo momento me ne batta una, poi fai tu per te. E mia ragazza, io, capito, mio ragazzo, la voglio faccio mio ragazzo, spagnolo e brasiliano, tutto che io conosco. Se faccio, faccio gratis, se non ho problemi di pagare niente, tu lo sai, con lavoro che faccio, impianti di antenna, installazioni di prese e cose del genere, se voglio faccio gratis, se non ho bisogno di pagare niente io. Grazie a Dio ne ho un sacco di amiche, di tutti i tipi, quindi non mi posso lamentare. Quello di mezzo funziona sempre, ma grazie se il pagamento funziona. Cioè, il pagamento non è un cazzo, perché non fare un pagamento via, comunque. La grazia si funziona sempre. Il pagamento è con mia moglie, perché pago sempre io. E ok, Antonio. Io prendo quello che passa il convento, Prendo quello che passa il convento fino a... che andrà bene, fino a che andrà bene. Adesso sono rincasato, ti ho detto, lo so più. Come quando mi conoscevi nel 1980, che stavo sempre parcheggiato in via Milano, quei tempi sono finiti, Antonio, hai capito? Quei tempi sono finiti, però diciamo che, hai capito, già giro anche io. Non è che io giro, a me mi cercano, è il discorso diverso. Io per lavoro che faccio mi cercano, non capito, quindi... Se non fare qualche lavoro lo faccio volentieri a pagamento, mi pagano loro a me, ma io non pago a loro, discorso diverso. Se dovessero magari essere simpatico come del genere, ve lo pio gratis, discorso è quello lì. Perché se è capitato così, io non vado a pagare, io non ho mai pagato, la verità. E me lo posso, mi posso anche vantare. Gli altri pagano 50, 100, quello che è, io invece faccio gratis, per simpatia, discorso è diverso. Andiamo a te, Antonio. te la regalo, però ormai non me la frega niente, più di tanto. Sono io a te che diciamo, ricevo molte volte, che qualche volta è sfuggito il numero, perché qua nelle fatture che ho, capito, sono arrivate numerose, così chiamate, dicete che anche se era già passato il numero, però non mi interessa più di tanto, non mi piacciono le donne tutte, ho preferito sempre le donne, capito, presentabili e capito, belle, insomma, belle. E molte volte Antonella, hai capito, devo resistere per il tuo 50, hai capito? E non sono andato comunque, se non vuoi sapere mai a Antonio a pagamento, vai vita mia. Io neanche io la verità. Io la verità me l'ho sempre pagato quelle, per fare lavori. Mi sono sempre divertito, facendo magari bistecche con la gemma, invitavano loro e cose del genere, mi sono sempre divertito, la verità. Io non mi posso lamentare, chi parla con gli altri, io sempre gratis, perché mi hanno sempre preso la simpatia. Poi se c'è uscito qualcosa, pazienza, va bene, se non c'è uscito niente, non mi fate proprio niente, la verità. Io non ci soffro come gli altri. Perché c'è con me, c'è queste cose qua? Perché la maggior parte delle mogli purtroppo è così. Finché si è sposato, cioè se sei fidanzato c'è tutti i giorni, quando si è sposato non è più. Quindi le cose cambiano, la gente fa per quelle cose lì, il discorso è quello. Non si possono lamentare, no? Se invece le mogli lavorano tutta la settimana, come si faceva prima, da fidanzati, le cose sarebbero cambiate. E invece è diversa la cosa. Che per loro. Io sì, Antonio, ma diciamo tu sei ancora giovane, puoi girare, puoi fare, capito? Io ormai sono 50, ce l'ho tutti i giorni, come stai dicendo tu, capito? Non è che vado a cercare più di tanto, però già ne ho giri molte e vengo anche qualche volta a cena, però la cena, quando invito una per cena è la cena, ma non vado oltre. Perché ho usato, quindi ho portato, quindi finisce lì, hai capito, allora, non mi dà tutti di nulla, perché le iniziative le devo prendere io. Però se il portato non è molto, non è molto finita. Quante volte anche non è molto, perché sono accorte, tutte quelle, capito, devo fare quelle cose, però quindi di cura, le iniziative le prendo io, sono pantalone, se lo dico vero, Antonio. Dove c'è il fatto non ci mancherebbe, non ci compreso cosa è, e vabbè, comunque è sempre un divertimento. Io ho pensato che mi sono divertendo ancora, finché duro, non potrei chiedere la mia in culo, c'è ma quello. Dunque, se sei andando a Ussi, Antonio, ti posso dire che se ci sei stare, a Ussi se butti la rete qualche cosa a fischi, e se ci sei stare, ce ne sono che vanno benissimo per te, belle, perché io ci sono di giorno a Ussi, un allievo, no, per donne, vado lì, c'è la macelleria, vado a fare le compere. Ed è vero che ce ne sono, anche scappano ormai, tanto a me, si pensi e cambia la convivente, come di quelle, capito? E niente, io ormai sono anche vecchio per queste cose. E adesso giovedì mattina vado a fare le creazioni con le sorelle, quelle che sono a Ussi, che vengono a mantenere le vedi, sono che due scapole, così sono un miliardario e mi faccio le case. Sì, ma ti stavo dicendo, rimani molti giorni, da quello che dovete cambiare loro, 3 o 4 giorni a Ussi, così è. Rimane in pratica la strada, risulta Sensi e Dissi. C'è quel costone, ci sono quelle case nuove venute, capito? E già lo so, già lo vedo, ma non è qui, non mi piace, sono ogni giorno, se ti vado arrivati io faccio un saltino. Io c'ho una nuova 2000 station, enorme, portata a Milano, qui c'è anche come l'antenna sulla rondaia, diciamo che sta accanto sopra il mio sportello. Sì, va bene, ma non se lo saliamo sì, non saliamo di sera agli ossi. Dopo pranzo, al limite, se ti fa sentire a baracchino, non sa ti chiamo e non ci sono problemi. Ci sentiamo, tanto metto l'antenna dalla parte tua, perché dall'altra parte becco Sassari, invece dalla parte del terrazzino becco muro secondo il terreno. Sono lì dopo pranzo, una di sera, perché sono 4, 4 e mezzo, una cosa del genere. Fino alle 9 di mattina. Ok, senti qua a trovarmi, invece io ci posso andare a fare un salto, salgo più a fare qualcosa, quindi le cose della convivente e la, diciamo, e tu sono la conosco, ma è mai vista, io si frequento, capito, ogni giorno, perché vado lì ci sono dei supermercati, diciamo, dove andare a Sassari molte volte, ancora il salmonito, fare le compere e niente, capito. E ogni giorno salgo a Ossi comunque. Però se vieni, che vuoi venire, ti offro qualcosa qui, se sono i miei figli, capito? Non c'è problemi, a te lei non viene avanti da chi tu, viene avanti da chi tu e una. E vabbè, domani sera per la sua Ossi ti faccio chiamata a bacchino, va? Dopo pranzo, al limite, ti chiamo baracchino, tanto sulla magnetica, così al limite scendo con mio cognato e ci conosciamo. Ci conosciamo già prima dove. Ci vediamo, e così almeno ci divertiamo un pochettino, va? Prima della notte. C'è il porto l'attacco c'è di sigari con il taxi del 2009 lì, non ho problemi tra quello lì. Già ti chiamo io. Su 14 o su 21, come capita là? Io che Antonelli si ho posso lasciare anche acceso, non ne ho problemi, è tanto che non esco più, perché quando esco vado in giro, cioè andavo in giro che mio figlio viene da Sassari, io ancora non mi ripeto per tutti i pezzi più sulla, smesso, allora io sono stato a bene preso, girato, ho tutta la troppo. Questi municipi con lui ho girato, ero Asti, ero tutto, non andato più strano, ho finito di fare il giro. E vabbè, domani sera ti faccio chiamata, però sì, ti chiamo e così ci vediamo, lì mi scendo con mio cognato in macchina, mia sorella e la mia 25, non c'è problema, ci vediamo una cosa lì, infatti siamo vicini, noi siamo distanti da Ossia Muros. Ah, se lo pensa io, appena vado lì, tanto vado dopo pranzo, glielo dico. Certo, la magnetica che ha usato direttamente è anche 2009, invio un paio di attacchi di sigari. E così almeno li metto tutto. Va bene, già, io ti saluto adesso che mi sto andando a comunicarmi. Se va alle 25 mi tocca le ossa, ma se va tra le 5 e mezzo, mia sorella viene messo 5 e mezzo. Ci stiamo diventando domani dopo pranzo, ok? Sarebbe bene, buonanotte, buon tutto, e dopo lo pranzo, va? Cioè ti faccio chiamata al limite o su 21, o su 35, o su 5. Poi vediamo se ne stanno. Va benissimo, Antonio Levi, va sempre benissimo. Hai capito? Se vieni, ti offro qualcosa, ci scambiamo gli auguri in anticipo, hai capito? Intanto ne ho preso la 50 che non esco. Non esco rimando con la famiglia e pretendo anche di fare un po' in casa, altrimenti finirei male la cosa sempre. Però ho deciso quest'anno di non andare in nessuna parte. Se vieni mi fa piacere, hai capito? Così ci conosciamo di nuovo, Antonio, io se ti vedo anche ti conosco, sono passati tanti anni e niente, comunque se vieni io ti aspetto sia diciamo la tua 25, il tuo cognato, ho capito, non ne ho problemi, ho deciso quest'anno di rimanere in casa e in casa rimango, perché se voglio posso posso anche sedermi in aereo, partire, farci numerosi inviti, ti faccio vedere tutte le lettere, le cose che mi arrivano, però ormai ho detto, devo parlare diciamo alla famiglia, io e uno ce lo cambio, devo seguire l'altro e ci ha portato a studiare, quindi devo stare qui, non ne faccio più un tirato di testa, perché io ho fatto troppe cose, comunque chiamami il dottor La Vitrano. Oh sì, d'accordo, non male, buonanotte, già buon tutto, ci stiamo rapportando domani, state bene, ciao.